Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Allora, come ultima puntata della stagione di questa trasmissione abbiamo sicuramente scelto un tema che ci mette in difficoltà ancora prima di partire. Pensavamo di fare una trasmissione più tranquilla e invece cosa è successo? Che stamattina avremmo voluto affrontare la riforma del credito al consumo, che era un tema all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di questa mattina. Sappiamo per certo che il tema è entrato al Consiglio dei Ministri, non sappiamo però in che versione sia uscito, perché in questo momento le agenzie stanno diramando tutta la serie dei provvedimenti che appunto il governo ha preso in questa riunione di stamattina che si è conclusa alle 11.25, quindi abbiamo anche l'orario di chiusura e di conclusione della riunione. Però, come sapete, siccome gli occhi erano concentrati su ben altre questioni, allora ancora un po' le agenzie fanno fatica a dare l'elenco completo dei provvedimenti che appunto sono stati presi. Diamo per certo che anche il pacchetto sul credito al consumo sia passato. Io saluto subito i miei ospiti e vi racconteremo che cosa dovrebbe cambiare per questo comparto, che sicuramente negli ultimi anni ha avuto una crescita enorme nel nostro paese, ma soprattutto adesso deve adempiere degli impegni europei, perché c'è stata una direttiva europea del settore. Ovviamente quasi tutti i settori tendono in questo momento, da qualche anno a questa parte, ad uniformarsi dal punto di vista legislativo, e adesso anche in questo settore arriva questo riordino che ha proprio l'obiettivo di uniformarsi anche al resto dell'Europa. Cosa cambia? Stamattina cercheremo di capirlo con Nicola Borsi, collega del Sole 24 Ore Plus 24. Nicola, benvenuto, bentornato. Grazie Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Abbiamo qui con noi il presidente di Assofin, l'associazione che riunisce le maggiori società di intermediari finanziari attivi nel settore del credito al consumo e dei finanziamenti immobiliari, Assofin per l'appunto, Valentino Ghelli. Presidente, buongiorno, benvenuto. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E c'è un bel settore che è oggetto di grandi cambiamenti, la mediazione creditizia. Quindi stamattina abbiamo scomodato anche il presidente dell'associazione dei mediatori creditizi di Assomea, Eustachio Allegretti. Presidente Allegretti, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, 800240024, numero verde per le vostre domande, anche se l'ultima puntata naturalmente avete come sempre la facoltà di darci qualche pungolo, qualche stimolo appunto per animare il dibattito su questo argomento. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Cosa cambia per prestiti e finanziamenti con la riforma che speriamo sia passata al Consiglio dei Ministri di questa mattina? Non lo sappiamo, quindi proprio in diretta vi raccontiamo insomma come stiamo affrontando anche noi questa questione. Come cambia, vi dicevo, per prestiti, cosa cambia per prestiti e finanziamenti? Arrivano di sicuro più tutele per i consumatori, perché per esempio vengono fissati nuovi parametri per esercitare il diritto di recesso da un finanziamento. Viene cancellato, qua è una questione un po' complicata, stamattina cercheremo di tradurvela in termini semplici, lo ius variandi dai mutui. Chissà cosa sarà questo termine, cosa cela, adesso ve lo spiegheremo. Arrivano anche regole più stringenti, come vi dicevo, per mediatori creditizi ed intermediari. La borsa, prima di cominciare a chiacchierare un po' su questo tema, la borsa oggi negativa, anche ieri giornata positiva per quasi tutta la seduta, poi inversione di tendenza sul finale, e anche oggi in attesa del prodotto interno lordo americano abbiamo un po' di incertezza in Europa, con cali che sono di circa mezzo punto ovunque. Anche Milano perde lo 0,54%, i titoli che subiscono il calo più forte: Bulgari meno 5, trimestrale pienamente bocciata dal mercato; Telecom, dopo i rialzi degli ultimi giorni, oggi frena, meno 2,78; Italcementi meno 2,70, meno 2,37 per Pirelli, meno 2 punti per Mediolanum, Fondiaria, Parmalat e Geox. Quindi titoli che ieri sono cresciuti di più, oggi naturalmente perdono di più. Ansaldo invece, protagonista di tre sedute profondamente in rosso, oggi recupera il 2% e in rialzo di circa l'1,2% Enel ed Exor. L'euro sul dollaro: l'euro stamattina era a 1,3090, adesso è a 1,2980, per cui ha fatto una bella marcia indietro, e questa è un po' oggi la tendenza dell'Europa. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di oggi. Parliamo di questa riforma del credito al consumo. Nicola, ti coinvolgo subito. Allora, l'Italia ottempera ad alcuni obblighi europei, e tra l'altro prima, facendomi una chiacchierata con il presidente di Assofin Ghelli prima di cominciare la trasmissione, proprio mi raccontava come stiamo aspettando anche nel nostro paese questa riforma da almeno 2 anni. Esatto, la direttiva è la 48 del 2008, quindi vuol dire che è stata emanata all'incirca 2 anni fa dall'Unione Europea, da Bruxelles. la recepiamo adesso, la recepiamo con alcune integrazioni e anche alcune modifiche, perché in realtà il decreto legislativo che dovrebbe uscire dal Consiglio dei Ministri non recepisce soltanto la 48/2008, ma integra parecchie altre disposizioni, come quelle, come si è detto, sullo ius variandi, come una nuova normativa sugli intermediari e gli agenti in attività finanziaria, come tutta una nuova serie di regole. Quindi è un intervento complesso e variegato, che è stato oggetto peraltro nelle scorse settimane di una procedura di consultazione molto partecipata da parte del Dipartimento del Tesoro, perché nel giro di una ventina di giorni sono arrivate oltre 60 risposte a questa consultazione, che hanno visto praticamente tutta la comunità finanziaria esporre i propri pareri e dare in qualche modo anche delle indicazioni che poi sono state recepite durante l'iter parlamentare. Presidente Ghelli, che stagione sta vivendo il credito al consumo nel nostro paese? Noi abbiamo avuto una crescita enorme tra la fine degli anni 90 e per tutto il periodo di quest'ultimo decennio, peraltro un settore che è cresciuto enormemente, anche considerate quelle che sono state tradizionalmente, storicamente, le abitudini degli italiani, che hanno sempre fatto molta fatica a pagare a rate tutto, e invece negli ultimi anni hanno scoperto anche questo mondo. C'è stata una crescita molto forte soprattutto del credito immobiliare, sulla scia anche di quanto è cresciuto tutto il mercato naturalmente. Adesso la battuta d'arresto inevitabile è determinata dalla crisi. Oggi i numeri del settore quali sono? Quelli, i numeri sui quali, come dire, si abbatte, poi il termine non è forse neanche giusto, questa riforma? Diciamo che il settore del credito ai consumatori, in generale del credito alla famiglia, sta vivendo un momento di riflessione, un momento di riflessione doverosa in quanto è connesso alla crisi. Il settore è cresciuto a doppia cifra, come si dice, fino al 2007. Poi nel 2008, in coincidenza con la crisi economica e finanziaria a livello mondiale, è iniziata una riduzione da un lato dei consumi e anche naturalmente delle famiglie italiane, e dall'altro del credito al consumo, che, come dice la parola, è destinato al finanziamento dei consumi. Per cui le dimensioni del mercato oggi sono queste. Il totale dei crediti erogati per il credito al consumo alle famiglie italiane ammonta a 110 miliardi di euro. Le erogazioni che vengono fatte ogni anno è nell'ordine dei 55 miliardi di euro. Nei primi sei mesi del 2010 il settore mostra una diminuzione in termini di erogato del 4,7%. È una diminuzione inferiore rispetto a quella che si è registrata nel 2009, dove la riduzione era stata anche in questo caso doppia cifra. Quindi, tanto per dare un'idea e la misura, Presidente, così del calo, nel suo momento più felice degli ultimi anni il settore che volumi movimentava? Ma diciamo che l'erogato anno era superiore ai 60 miliardi di euro, ma soprattutto la crescita sugli anni precedenti era una crescita mediamente del 15% ogni anno. Quindi è un settore che si è sviluppato molto, pur, se voglio ricordare, ancora oggi ha un livello di diffusione che è inferiore rispetto a quello della media europea. Guardiamo i paesi latini, non guardiamo i paesi anglosassoni, che abbiamo scoperto che viaggiano su altri ritmi. Quindi gli italiani comunque si confermano prudenti, accorti nelle loro scelte, e correttamente dal mio punto di vista, nel momento in cui c'è una diminuzione del reddito reale e soprattutto c'è un aumento dei tassi di disoccupazione, la famiglia rivede in modo più prudente le proprie scelte di acquisto, di investimento e anche di indebitamento. La crisi si è sentita anche proprio nelle forme di prestito che sono state più richieste dalle famiglie, mentre negli anni passati, Nicola, ci si indebitava anche per andare in vacanza, quindi il tema del prestito finalizzato era quello più cavalcato dalle famiglie e dai risparmiatori, dalle famiglie e dai consumatori. Negli ultimi anni invece, per esempio, hanno avuto grande spazio le sottoscrizioni di cessione del quinto dello stipendio e prestiti personali, quindi questo proprio a significare che la quarta settimana del mese si fa fatica appunto a gestirla serenamente. Sì, va detto che in Italia la diffusione del credito al consumo è stata una diffusione intelligente, nel senso che la stessa Assofin, va dato atto all'associazione, negli anni scorsi ha dotato il cliente consumatore risparmiatore di tutta una serie di strumenti che hanno impegnato l'associazione e tutte le associate, sia sul fronte della trasparenza che sul fronte della pubblicità, ma soprattutto di possibilità di evitare quello che è un dramma in alcuni paesi del nord Europa e soprattutto nel mercato anglosassone, il fenomeno del sovraindebitamento strutturale delle famiglie per il credito al consumo, che è all'origine di tanti guai di alcuni dei più grossi intermediari finanziari e creditizi, ad esempio del Regno Unito. Quindi è sicuramente un settore che è cresciuto, è un settore che però ha conservato saldamente un ancoraggio alla realtà dei fatti. Le distorsioni più importanti noi ce le abbiamo avute per esempio nell'utilizzo delle revolving, non sono stati negli strumenti particolarmente compresi in Italia. Diciamo che sono strumenti molto costosi ancora se si guarda il tasso medio praticato dagli operatori, e sono strumenti sui quali occorre forse un lavoro suppletivo di educazione finanziaria nei confronti del cliente, che deve imparare a usarli nella maniera corretta. Tra l'altro questa riforma di cui stiamo parlando, di cui ancora non ho notizia peraltro dalle agenzie, ve lo dico, impone anche degli obblighi di comunicazione ed informativa pubblicitaria tra industria del settore e destinatario finale, appunto molto precisi, per cui magari chissà anche questo non possa contribuire ad una miglior distribuzione dei prodotti di credito al consumo. Allora, c'è una parte di questa riforma che riguarda la mediazione creditizia. Allegretti, non mi sono dimenticata di lei, adesso entreremo proprio nel merito di ogni singolo punto di questa riforma, e per farlo sul tema della mediazione creditizia abbiamo già un ascoltatore che è pronto ad intervenire. Allora introduco questo argomento grazie proprio alla sollecitazione di Marcello da Como, che saluto. Marcello, benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti e ai radioascoltatori. Mediatore. Senta, creditizio. Io sono un piccolo mediatore. Un piccolo mediatore che vede una parte di questa riforma con favore, perché è giusto che siano finalmente stati inseriti dei requisiti di accesso stringenti, come possono essere quelli per i promotori finanziari, con un esame, eccetera. Perché fino adesso era necessario, bastava semplicemente bastavano l'iscrizione all'ufficio. Onorabilità e probabilmente la quinta elementare. Insomma, e l'iscrizione all'ufficio italiano cambia. Sì. Ecco. Allora, questa parte va benissimo. Quello che è discutibile, dove dietro si vede la mano di alcune potenti lobby, bancari e sempre grossi gruppi di mediatori creditizi, è la parte dove si impone, dove non è chiesto neanche la direttiva, dalla direttiva comunitaria, di fare una SPA con 120.000 euro di capitale e collegio sindacale relativo e relativo ai costi. Lei immagina cosa vuol dire mantenere un collegio sindacale e una SPA. Cosa significa questo per la sua attività, Marcello, che lei deve mettersi a fare un altro lavoro? Del consumatore, perché non sono qui per pro domo mia. Ma per far capire anche, proprio nel pieno rispetto del suo lavoro, che cosa potrebbe subire lei nella sua attività. Ma questo è meno interessante. Quello dal punto di vista del consumatore succederà che ci saranno degli oligopoli, cioè ci saranno una concentrazione, proprio grazie a queste barriere di accesso molto alte, di alcuni 4-5 grandi gruppi mediatori creditizi, di mediazione creditizia, i quali andranno ad accorparsi tutti questi migliaia di professionisti seri e onesti. Ci sono le patologie come in tutti i settori, certo, ma non vanno curati in questo modo, perché una società di 120.000 euro di capitale non tutela il consumatore. Succederà questo, succederà che la società di 120.000 capitalizzata in questo modo può aprirla anche un mafioso o un'organizzazione malavitosa che non ha certo problemi di capitalizzazione di una società e metterci delle teste di legno. I piccoli, seri, onesti, che lavorano tutti i giorni con società di persone o società ditte individuali, i quali rispondono illimitatamente con il loro patrimonio personale se causassero dei danni a clienti o istituti finanziari per i quali lavorano. Oltretutto sono i più seri, e quasi tutti quelli che appartengono alle associazioni sono coperti da polizze assicurative, come i commercialisti, gli avvocati, che tra l'altro anche commercialisti, avvocati e altri professionisti, chirurghi, plastici, eccetera, potrebbero creare dei danni in mani. Allora mi chiedo perché anche lì non bisogna costituire delle SPA con collegio sindacale. Marcello, io devo andare in pausa. Abbiamo capito però il succo delle sue perplessità, per definirle con un eufemismo. Se ha voglia la faccio magari proseguire nella seconda parte di Salvadanaio, e naturalmente chiedo ancora un attimo di pazienza ad Eustachio Allegretti, proprio per farci spiegare anche cosa cambia per l'attività di mediatori ed agenti, e se il nostro ascoltatore ha ragione appunto di tutte le cose che ci ha detto. La riforma del credito al consumo oggi a Salvadanaio, tutte le novità che arriveranno, e naturalmente aspettiamo ancora che venga ufficializzata l'approvazione di questo pacchetto dal Consiglio dei Ministri di questa mattina. Ovviamente, come dicevamo in apertura, l'attenzione oggi era spostata su altri temi, quindi si sta diffondendo con una certa lentezza tutto l'elenco dei provvedimenti presi questa mattina. C'è però anche questo pacchetto. Ci dovrebbe essere, ve lo confermeremo nel corso della trasmissione, appunto, se questa conferma arriverà, la vedrò lampeggiare delle agenzie. Volevo salutare Claudia da Ravenna, non la faccio intervenire perché è una polemica sterile. Claudia, nessuno ha detto che il promotore finanziario lavora solamente con la licenza elementare. Marcello parlava dei mediatori creditizi di un'altra categoria, molti dei quali operano con criteri del tutto discutibili su questo mercato. Quindi la saluto rapidamente, ma forse non ha capito bene la prima parte della trasmissione. Eustachio Allegretti, presidente di Assomea, ancora buongiorno. Allora, ci può spiegare, poi arriveremo anche a tutte le cose che ha detto l'ascoltatore, cosa cambia per l'attività di mediatore creditizio con questa riforma e soprattutto per chi non si fosse mai rivolta a questa figura professionale, il mediatore creditizio che cosa fa esattamente? Allora, prima di tutto buongiorno a tutti. Dobbiamo dire che con questa riforma è una riforma di carattere epocale, perché si modifica l'attività e la funzione del mediatore creditizio e, così come correttamente diceva in apertura Nicola Borzi, è un provvedimento che va letto anche in riferimento a tutto il resto che il provvedimento prevede, quindi anche l'attuazione della direttiva relativa ai contratti di credito al consumo. E infatti, specialmente sugli obblighi precontrattuali, che la riforma della mediazione creditizia si instaura. Che succede? Fino ad oggi l'attività di mediatore creditizio poteva essere svolta da una persona fisica. Dall'approvazione di questa legge non sarà più così. Per fare l'attività di mediazione creditizia bisogna costituirsi in società. Capitale sociale minimo 120.000 euro, società di capitali, ma anche cooperativa. Quindi ci sarà la possibilità di lavorare anche in questo modo. I requisiti di onorabilità e di professionalità sono molto stretti, però dobbiamo anche dire che questa indicazione non nasce oggi, nasce già dal 2007, perché già dal 2007 Banca d'Italia aveva acceso un alert sull'aumento indiscriminato del numero dei mediatori creditizi operanti in Italia. E credo che su questo punto almeno, Presidente, non abbiate nulla da eccepire. Assolutamente, è l'unica possibilità di effettuare controlli efficaci e controlli di qualità è quello di dare dei requisiti molto stringenti, in maniera tale che gli operatori sul mercato, che saranno certamente alcune migliaia, non qualche decina o qualche unità, perché non è impossibile pensare che da 130-140 mila iscritti si passi a 5-6 unità. Ce ne saranno qualche migliaio operanti in Italia, soltanto che bisogna cambiare mentalità, bisogna capire che per operare bisogna operare in maniera professionale, bisogna aggiornarsi e bisogna far sì che le indicazioni che vengono fornite siano chiare, trasparenti per il consumatore e per l'ente di controllo. C'è un altro aspetto, Presidente Allegretti, sul quale mi sono fatta un po' di domande. Per gli agenti scatta l'obbligo del monomandato. Che cosa vuol dire? Che, visto che adesso stiamo andando al plurimandato un po' per tutti i settori, perché anche le società che distribuiscono per esempio prodotti di investimento, fondi e polizze, insomma, stanno andando sempre di più, io ovviamente banalizzo per farla comprendere a tutti moltissimo la questione, stanno andando sempre di più sulla strada del plurimandato, cioè un singolo promotore finanziario per esempio che possa vendere più prodotti di risparmio, di più case di investimento. Che cosa vuol dire questo aspetto invece che per gli agenti nella mediazione creditizia scatta l'obbligo del monomandato? Un singolo agente dovrà vendere solamente i prodotti della casa che rappresenta e basta? Cioè non è un po' ritorno indietro? Ecco. Attività finanziaria, naturalmente. Ecco. Sì. Senta, è uno dei motivi cui abbiamo un attimo un punto interrogativo, dobbiamo vedere che cosa è uscito, perché è uno dei punti che era controversi e che era stata posta l'attenzione al Consiglio dei Ministri, sia da parte della Sesta Commissione Camera che Finanze, perché erano dei provvedimenti che volevano che fosse un po' migliorato, modificato. Quindi insomma, prima di dirci quello che ne pensa, abbiamo una riserva. Lui, bisogna leggere un attimo qual è il testo definitivo, perché io sapevo che ieri sera erano ancora a scrivere al Ministero delle Finanze. Che poi, tra l'altro, Nicola, tra quello che uscirà, speriamo, stamattina da Palazzo Chigi, a quello che poi arriverà in Gazzetta, magari potrebbero esserci ulteriori aggiustamenti o no, teoricamente no non ce ne possono essere più essere nel momento in cui il testo esce, ecco, è quello qua definitivo. Però diciamo la verità, questa questione del monomandato non è marginale, perché su questo si sono scontrate due visioni totalmente opposte. Da una parte c'è una visione che è quella delle imprese, che dicono che la gente è un appunto un loro rappresentante contrattualizzato, per cui ha un obbligo nei confronti delle aziende. Dall'altra parte ci sono i clienti che dicono: ok, l'agente ha un obbligo nei confronti dell'azienda che gli ha firmato un contratto di agenzia, ma noi abbiamo un interesse che è quello ad avere una comparabilità di case e di prodotti la più ampia possibile, perché in questo modo ci sarà garantita una maggiore concorrenza. D'altronde la stessa direttiva 48/2008 non prevedeva il monomandato. Questa è una interpretazione, se vogliamo, più restrittiva che è stata introdotta dal legislatore italiano. E su questo il dibattito è un dibattito forte. Va detto che quando Allegretti dice che c'è una vasta platea, non si può che dargli ragione. Secondo Banca d'Italia, a fine 2009 in Italia c'erano quasi 122.000 mediatori creditizi e poco meno di 68.000 agenti. È una polverizzazione del mercato che indubbiamente ha consentito a operatori, diciamo, poco professionali di svolgere un ruolo. Bisognerà vedere se queste barriere che sono state introdotte consentiranno comunque un miglioramento del mercato o se, come segnalava il primo ascoltatore, non lasceranno comunque la possibilità per le organizzazioni criminali magari di entrare e invece non lasceranno fuori altri operatori che avrebbero avuto tutto il diritto di operare. Io personalmente ritengo che il requisito di capitale sia un requisito molto stringente e sia quasi una barriera di accesso. Addirittura. No, tra l'altro adesso, siccome la riforma di cui stiamo parlando questa mattina presenta tanti aspetti dei quali ancora non abbiamo avuto modo di parlare, io magari mi riservo di ritornare a settembre subito su questi temi, magari spezzetteremo tutta la riforma punto per punto e dedicheremo tutta un'intera puntata al tema dei mediatori creditizi, perché poi alla fine sono figure nelle quali ci imbattiamo in termini positivi ovviamente molto frequentemente, quindi è giusto che il consumatore sappia qual è la figura di fronte alla quale si trova, naturalmente, se perché poi tra l'altro c'è stata sempre anche questa discussione in passato. Io mi ricordo molto bene che spesso i mediatori sono stati visti come quelle figure di ultima istanza al quale il consumatore si rivolge quando la banca, per esempio, dice no, quando l'intermediario tradizionale dice no. Diciamo che ci sono delle aree nelle quali i mediatori hanno operato basando, ad esempio, la loro crescita sulla possibilità di vendere più prodotti contemporaneamente. Penso agli agenti immobiliari che in qualche modo proponevano anche o indirizzavano il cliente nella scelta di un mutuo. Secondo me indirizzano. Secondo me bisogna ricordare che in realtà dentro questo testo, dentro questo decreto legislativo, ci sono cose molto più rilevanti per il consumatore, come la possibilità di recesso. Volevo andare infatti con questa proprio col presidente Ghelli. Allora, presidente di Assofin, vado in un negozio, mi compro il televisore nuovo e per poterlo fare, adesso è molto frequente che si possa fare direttamente anche al centro commerciale presso il quale compro il televisore, contestualmente sottoscrivo un contratto di credito al consumo, quindi un prestito finalizzato, di quelli più diffusi sicuramente nel nostro mercato, e ammettiamo che dopo aver firmato, perché poi soprattutto se è sottoscritto in condizioni di questo tipo, molto spesso la persona guarda sicuramente a tutte le caratteristiche del televisore, molto meno frequentemente alle caratteristiche e agli impegni del contratto di finanziamento. Detto questo, una volta che comincio a pagare magari mi rendo conto che questo contratto non ha tutte le caratteristiche che credevo di aver compreso, voglio esercitare il diritto di recesso, magari, che ne so, o pagando tutto subito oppure, non lo so, per esempio ci sono degli impegni finanziari, degli oneri che non ritengo di dover onorare. In sostanza, intanto, quando posso contestare un finanziamento e soprattutto come funziona nella nuova riforma il diritto di recesso? Allora, adesso le dico cosa succederà domani quando un cliente entrerà in un negozio per fare questa operazione, perché cambiano tante cose. Cambieranno tante cose. Adesso siamo nell'incertezza che il provvedimento venga licenziato oggi. Se non è oggi per altri motivi, abbiamo questa suspense, sarà all'inizio di settembre, perché questa è la parte di normativa europea e deve essere recepita in ogni caso entro i primi di settembre. Tempi di attuazione. E questo cambiamento per il consumatore avverrà nel primo trimestre del 2011, anche perché Banca d'Italia dovrà emanare una normativa secondaria e ci saranno dei tempi per adeguarsi. Cosa cambia? Il consumatore entra in un negozio, avrà una informativa precontrattuale molto più chiara, trasparente e semplice da comprendere, questo è l'auspicio rispetto a prima, facendo riferimento a una informativa europea di base sul credito ai consumatori. Quindi i consumatori europei avranno tutte le stesse informazioni. Avrà diritto di avere gratuitamente una copia del contratto, avrà la possibilità di dovrà avere chiarimenti adeguati sul tipo di contratto e sulle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di questo contratto. Banca d'Italia ci dirà quali saranno queste informazioni che dovremo dare al cliente. Il cliente perfeziona il contratto e cambia idea, ha un diritto di ripensamento, avrà un diritto di ripensamento perché oggi non c'è, di 14 giorni. Quindi se è vero che nel momento in cui compra un bene è interessato alle caratteristiche tecnologiche di quel bene, poi accessoriamente al contratto di finanziamento, avrà la possibilità, tornato a casa, di leggersi, studiarsi il contratto di finanziamento e entro 14 giorni di mandare una lettera raccomandata senza nessuna spiegazione. Senza nessuna penale, a meno che il contratto sia già stato liquidato, in quel caso deve restituire il capitale, e si libera dal contratto di finanziamento, cosa che ha la possibilità di fare in qualsiasi momento tramite l'estinzione anticipata del contratto, ad esempio perché ha trovato un contratto o un finanziamento più conveniente, e lo potrà fare fino a 10.000 euro senza pagare alcuna penale. Quindi oltre 10.000 euro c'è una penale dell'1%, dello 0,50% per l'estinzione anticipata. Contratti di credito al consumo nascono come importo medio di 8.500 euro, quindi la stragrande maggioranza dei contratti potrà essere estinta anticipatamente senza penale, senza costi. Ultima cosa, ma non meno importante, e se poi il televisore che ha portato a casa non funziona, o se il mobile che gli viene consegnato non sta nella cucina, o se la vacanza, le faceva prima riferimento alle vacanze, che è stata comperata quando vado a Malpensa, mi trovo che l'aereo non c'è o che il villaggio non esiste perché la compagnia ha chiuso, subentra la garanzia sussidiaria del fornitore. Quindi il consumatore un po' che è successo questi giorni con Viaggi del Ventaglio, peraltro, ma questa è tutta un'altra storia. È un esempio che ha fatto lei. Diciamo che un domani, nel momento in cui il consumatore ha acquistato questo pacchetto con un finanziamento finalizzato all'acquisto di questo pacchetto, cerca di rivalersi nei confronti del fornitore, nel momento in cui inutilmente cerca di costituirsi in mora, cioè non ha nessuna soddisfazione, si può rivalere nei confronti della società di credito al consumo e quindi ha diritto, se ha pagato delle rate, la restituzione di queste rate e la risoluzione del contratto senza penali. Quindi tanti, tanti vantaggi, tante garanzie in più, tante, dal mio punto di vista, tutele, trasparenza per i consumatori. La riforma del credito al consumo oggi a Salvadanaio è il tema della nostra ultima puntata di questa stagione, che si è conclusa appunto molto felicemente. Noi naturalmente ritorneremo a settembre con voi con tutte le tematiche legate alla gestione del budget delle famiglie, alla gestione del bilancio familiare, tra prodotti di investimento, di risparmio, fra tasse, mutui e tutti gli impegni che ogni famiglia ha. Ieri per esempio abbiamo parlato anche dei libri di testo per le scuole. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Abbiamo ancora 8-9 minuti di tempo prima di salutarci. Sentiamo Andrea da Ravenna, che voleva fare una precisazione rispetto a quello che ho detto io prima. Andrea, buongiorno. È rapidissimo, se ce la fa, era grazie. Una nota proprio informativa. Sì, ma ho capito quello che voleva dire. Io ovviamente avevo molto banalizzato la questione, però la faccio precisare senz'altro. Guardi, è soltanto relativamente al mandato dei promotori finanziari, in questo caso quali io sono. Il mandato è unico, cioè il monomandato, poi l'offerta che può offrire il promotore dipende da quei servizi che ha disposizione. Certo. No, io faccio per esempio un nome a caso, posso essere un promotore di Banca Fineco e vendere i prodotti di 10 casi di investimento, così come fa Mediolanum, come fanno altre società, giusto? Esatto. Perfetto. Andrea, buon lavoro, grazie. Renato da Milano. Buone ferie. Sì. Grazie Andrea, mi scusi, l'avevo sovrastata. Renato da Milano, buongiorno. Buongiorno. Allora, mi sono fermato in macchina. Bravo, per carità del cielo. Siamo a posto, ok. Ma io volevo intervenire, le spiego. Io sono un bancario, un promotore finanziario, cessioni, ho amici che fanno cessioni, quindi il settore lo conosco bene da circa 35 anni. Ah, ecco, no? Un pivellino. E volevo fare due osservazioni molto sintetiche e molto semplici, no? Allora, questa riforma va nel fatto di pulire un po' tutto, perché c'era di tutto e di più, no, in questo settore. Sì, diciamo che siamo dovuti intanto adeguare agli standard europei, primo impegno, certo, dopodiché certo. Insomma, noi ne abbiamo approfittato per sistemare un po' di cose in sospeso. Io facevo una prima osservazione sui costi. Io credo che i costi vadano ad aumentare per i clienti, per un motivo molto semplice. Allora, la cessione ha quattro tipi di costi. assicurativi, il tasso che applica la banca, le commissioni della banca, perché chi non lo sa anche la banca applica le commissioni, e le commissioni per la gente. Nella riforma è previsto che la banca possa prelevare un quinto, un quarto delle commissioni della gente, se che la gente ha già percepito, se il cliente, come dire, decide di rimborsare prima la sua cessione. Quindi la cessione di 10 anni, dopo 4 anni dice rimborso, sulla rimanenza la banca può prelevare le cessioni che una sorta di penale, quindi la possiamo penale. Definire, allora cosa, Renato? Cosa fanno gli agenti? Devono creare una sorta di fondo, qualcosa che tengano lì per dire non si sa mai che un domani, quello è uno. Quindi quello andrà, ecco, mi chiedo se queste penali le paga solo l'agente o le paga anche la banca sulle commissioni e le assicurazioni. O il consumatore, insomma, come tutto questo ricade sul consumatore. Però, che non è sbagliata come cosa, però voglio capire. Sì. Rapidissimo, sì, Renato, il secondo punto? Sì, il secondo punto è che per fare una cessione del quinto occorrono 72 firme. Ha sentito bene? Sì. Io mi chiedo, chi le propone, io stesso, conosce cosa c'è in tutti questi fogli e chi le riceve? Quindi qui stanno cambiando le cose, ma per non cambiare nulla. Grazie Renato. Nicola Borsi. Vabbè, se sono delle perplessità, d'altronde sa com'è, voi ci lavorate in questo settore, quindi sicuramente qualche aspetto anche molto dettagliato lo conoscete sicuramente meglio di noi. Nicola. Beh, il settore è sicuramente un settore i cui costi non sono bassi, perché Banca d'Italia a giugno ha reso noto per la prima volta il livello medio delle commissioni che sono pagate agli intermediari e agli agenti, che andrà d'ora in avanti inserito tra l'altro nel calcolo dei tassi di base per la soglia antiusura, e devo dire che è impressionante, perché si va dal 2,2% dell'erogato, cioè del volume nei finanziamenti alle imprese, si arriva fino al 4,50% in quelli alle famiglie, e ovviamente poi si scende sui mutui perché lì l'erogato è molto più consistente, però è l'1,33. Questa era la media dei dati da gennaio a marzo, quindi erano comunque valori molto significativi quanto a, diciamo, impatto commissionale. Ora io non so se la riforma li ridurrà o li aumenterà, diciamo che ci sono da questo punto di vista, ripeto, visioni contrastanti. Presidente Ghelli, insomma, io penso che alla lunga i costi diminuiranno per il cliente, sia perché non stimola in qualche maniera un po' la concorrenza del settore, che è già particolarmente forte, devo dire che negli ultimi anni si è intensificata non poco in Italia. C'è una forte concorrenza, ci sono le norme che dicevo prima che avranno applicazione, che ridurranno comunque gli oneri per il cliente, ma soprattutto c'è una profonda revisione dell'offerta di credito al consumo. C'è un innalzamento per tutti dei requisiti, quindi per le società finanziarie, per i mediatori, per gli agenti, e ogni categoria dovrà fare il conto naturalmente con questa situazione, ma si dovrebbe eliminare una sorta di catena distributiva molto lunga con tanti soggetti che svolgono un'attività magari in modo non professionale, non esclusivo, non formato, come si diceva prima, e che comunque percepiscono una parte di questi compensi. Un domani la struttura distributiva dovrebbe essere più fluida, più corta e quindi meno costosa, anche per effetto della maggiore concorrenza, ma soprattutto quello che vorrei mettere in evidenza è, se si riesce a perseguire questo obiettivo con questo provvedimento, un grande cambiamento per il cliente, cioè il cliente un domani capirà chi ha di fronte. Se ha un agente che vende i prodotti di un intermediario finanziario bancario, se ha un mediatore che ha un ventaglio di prodotti invece che possono essere offerti, o se ha una società finanziaria che eroga direttamente il finanziamento. Ci rimangono 2 minuti e mezzo di tempo. Nicola, so che tu sei un vigilante del settore accanitissimo. Siamo sicuri che potremo percorrere questa strada? Io me lo auguro, e chiaramente questo è nell'interesse del consumatore cliente e probabilmente anche delle autorità che hanno emanato la norma. Vedremo, perché anche in passato purtroppo interventi che sono nati sotto le migliori intenzioni per motivi diversi non sono riusciti ad arrivare a compimento quanto ad effetti. Però vorrei indicare un passaggio importante di questa riforma sul quale per il momento non siamo entrati, che è il cosiddetto ius variandi. Esatto, cioè, dal momento in cui entrerà in vigore la norma, Sui mutui in particolare, le banche erogatrici non potranno più inserire la cosiddetta clausola dello ius variandi, cioè della variazione di contratto. Faccio un esempio pratico, Nicola. Per esempio, io pensano, già ho il mutuo. Allora, no, molti pensano di aver stipulato. So di aver stabilito delle condizioni nel 2004 quando l'ho sottoscritto. Dove adesso può intervenire la banca? Dove non potrà più la farlo? La banca può intervenire se c'è questa clausola e se è stata espressamente firmata anche dal cliente. La banca può intervenire sul tasso, cioè può rideterminare anche nei contratti a tasso fisso il livello del tasso applicato in funzione di una propria decisione autonoma stabilita sull'andamento del mercato. Cioè domani scoppia una nuova crisi finanziaria, il tasso interbancario va alle stelle e la banca decide di cambiare il tasso fisso del mutuo. Con l'entrata in vigore di questa norma la banca... Cosa che anche con l'ultima crisi non è successa, mi sembra. Non è successa, però era nell'eventualità. Nelle prerogative della banca di poterlo fare. Domani, con l'ingresso in vigore di questa riforma, verrà bandito lo ius variandi dai contratti di mutuo, rimarrà soltanto per i contratti di durata, come ad esempio i conti correnti, i contratti di amministrazione e deposito di titoli contabili. Allora, a settembre abbiamo già almeno già 3 o 4 puntate pronte, con voi naturalmente, poi anche con Eustachio Allegretti, che io saluto. 10 secondi di tempo gli concedo, però Allegretti, se volesse, quantomeno per gentilezza, chiudere su qualche altro aspetto, se vuole precisare sul tema della mediazione creditizia, prima di salutarci, ma veramente 20 secondi. 20 secondi, voglio tranquillizzare Borghi dicendo che con la nuova procedura, fortunatamente, le società di mediazione creditizia rispondono civilmente dell'operato dei collaboratori con i quali lavorano, per cui l'attenzione, la verifica sarà maniacale. Grazie ad Eustachio Allegretti, a Valentino Ghelli, Nicola Borsi, buone vacanze a tutti e tre naturalmente. Grazie. Buone vacanze, grazie a Gaia Romani che mi aiuta sempre in redazione, anzi fa forse molto più lavoro di me per preparare bene Salvadanaio e anche Soldi e Dintorni al mattino. Grazie a Roberto Scaltritti per l'assistenza in regia. Buone vacanze a tutti, ci risentiamo non a settembre per la verità, perché io ritorno in pista il 23 agosto, per cui a presto e naturalmente buona estate a tutti.